Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Emilia, un altro operaio morto nel crollo di una fabbrica. Sono 17 le vittime del sisma di ieri. Di queste 14 erano nei capannoni. La procura di Modena apre un'inchiesta. Decine di scosse nella notte, l'ultima stamattina di magnitudo 3.8. Aiuti, il governo vara l'aumento di 2 centesimi della benzina per l'emergenza. Spread in salita sopra 460 punti. Il tesoro vende solo una parte dei BTP all'asta di oggi. Calcio scommesse, si apre il fronte Napoli. Oggi gli avvisi a 2 ex azzurri, Gianello e Giusti. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione GR24, ben ritrovati. Ancora decine le scosse nella notte, l'ultima stamattina, come avete sentito, di magnitudo 3.8, avvertita dalla popolazione nella zona colpita dai 2 violenti terremoti che hanno provocato sin qua 24 morti. La maggior parte delle vittime nel crollo di capannoni che ospitavano le fabbriche della zona. La procura di Modena questa mattina ha aperto su questo un'inchiesta e oggi riunione del Consiglio dei Ministri. Partiamo proprio da qua, dalle misure approntate dal governo per affrontare l'emergenza. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Diversi provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri. Lo stato di emergenza è stato esteso alle province di Reggio Emilia e di Rovigo. Al Presidente della Regione sono affidati i compiti di commissario per la ricostruzione. Quanto alla copertura dei vari interventi previsti di aiuto e di ricostruzione, è stato deciso l'aumento di 2 centesimi dell'accisa sui carburanti per autotrasporto, così come l'utilizzo di fondi resi disponibili dalla Spending Review. Un apposito decreto ministeriale rinvia quindi a settembre i versamenti fiscali e i contributi. Si deroga anche al patto di stabilità per i comuni proprio per fronteggiare il post-terremoto. Quanto alle imprese, vi è la concessione di contributi a fondo perduto, individuazione di misure per la ripresa dell'attività economica, delocalizzazione facilitata delle imprese produttive. Infine, come anticipato ieri in Parlamento, il governo ha fissato per lunedì prossimo, 4 giugno, una giornata di lutto nazionale, bandiera a mezz'asta e minuto di raccoglimento in tutte le scuole. E da Roma è tutto. Grazie dunque Vincenzo Miglietta. E intanto il procuratore capo di Modena, Zincani, ha annunciato questa mattina l'apertura di un'inchiesta relativa alle vittime dei crolli avvenuti nella provincia di Modena a causa del sisma di ieri. Il procuratore ha detto: la politica industriale a livello nazionale sulla costruzione di questi fabbricati è una politica suicida. Le operazioni di soccorso si sono concentrate in queste ore proprio nella provincia di Modena, a Medolla, dove c'erano alcuni dispersi, presumibilmente rimasti intrappolati nel crollo di una fabbrica nel distretto biomedicale. Ci colleghiamo allora nuovamente con la nostra inviata che si trova proprio lì, Raffaella Calandra. Buongiorno, ben ritrovata. Sì, buongiorno. Il segnale poco fa è stato lo spostamento delle barelle, quando lenzuola bianche sono spuntate accanto alle macerie di quella che era un'importante fabbrica del distretto biomedicale di Medolla. Abbiamo capito che altri 2 corpi erano stati estratti. In 4 ieri erano rimasti sotto le rovine della Emotronics. Paolo, padre di 2 figli, Biagio, il più giovane, 25 anni, Matteo e Giordano sui 30 anni e quest'ultimo napoletano con un contratto a tempo determinato che non voleva mettere a rischio. E anche per questo lunedì, subito alla riapertura dopo lo stop per il primo terremoto, era tornato in ditta, reparto trafila, anche se malvolentieri, ci confessa il fratello che da 10 giorni, come tanti, qui sta dormendo fuori casa. E proprio il desiderio di ricominciare e di riappropriarsi anche col lavoro di una vita normale aveva convinto i dipendenti di questa, come di altre fabbriche, a tornare al loro posto, anche perché i titolari avevano affidato ad un proprio ingegnere una perizia e l'avevano comunicato agli operai, come ci racconta Isa, veterana dell'Emotronics. Sentiamo. Chi è che lo sapeva che veniva un terremoto così? Se ti danno l'autocertificazione, che ti dicono anche gli ingegneri che va bene. Voi vi sentivate tranquilli, cioè eravate tornati, tutto certo. A posto, non c'era. Cioè, il titolare vi aveva informato delle procedure che erano state fatte? Sì, sono venuti in ditta. Comunque la struttura, a vederla così, non sembra particolarmente vecchia, avrà? No, anche perché ci hanno sempre detto che questa zona qui non è sismica. Noi siamo, come voi, come lo sapete, siamo del nord, ci facciamo sulle maniche e partiamo. Cercavamo di tornare più alla svelta, alla normalità. È quello, volevamo tornare al nostro lavoro, alle nostre case. Pian piano ritrovare il nostro lavoro sembrava quasi di trovare la normalità. È quello che ci ha fregato, purtroppo, è quello. Sicuramente anche loro hanno fatto in modo di metterci al più sicuro possibile, no, evidentemente anche loro non ci facevano entrare sapendo un disastro del genere. Come potevamo prevedere questo?

negli episodi precedenti, e quali sono le conseguenze sulle persone anche nel lungo periodo di un sisma grave come quello avvenuto in questi giorni in Emilia Romagna. Valentina Furlanetto ha sentito l'antropologa Rita Fina, che ha compiuto degli studi sulle popolazioni dell'Irpinia e dell'Aquila. All'Aquila la creazione della zona rossa, l'impossibilità delle persone di riandare nelle proprie case se non accompagnati dal vigile del fuoco per recuperare qualche vestito. C'era un modello di controllo molto forte, le tendopoli erano di fatto un'istituzione totale alla Goffman, era limitato l'ingresso, era controllato l'ingresso, le persone lì dentro cioè venivano irreggimentate anche nel senso di questo tempo presente, sospeso, infinito. Questo tempo veniva scandito dall'orario dei pasti. E questa sospensione tra l'altro creava anche nella popolazione una sorta di incapacità di resilienza, perché tu non riesci ad immaginare il futuro se non riesci a vivere il presente. Quindi diciamo, per i suoi studi lei sconsiglierebbe di ripetere una esperienza come quella dell'Aquila nella gestione post terremoto? Credo che sia stato un gran bel esperimento che abbiano voluto fare utilizzando una popolazione già traumatizzata come cavia. Non credo che abbia fatto bene. Così l'antropologa Rita Fina. E c'è spazio in queste ore anche per le polemiche. I segretari di CGIL, CISL e UIL decideranno oggi pomeriggio se confermare o meno la manifestazione che avevano organizzato per il 2 giugno. La decisione invece di svolgere comunque la parata per la festa della Repubblica, come ha detto Napolitano in toni sobri, è dedicata alle vittime del terremoto, scatena però una reazione del popolo del web, che si mobilita per chiedere invece l'abolizione di questa parata. Promotore dell'appello su Twitter, il presidente di SEL, Nicky Vendola. Sentiamolo al microfono di Doriana Leonardo. Io sono stato educato al rispetto delle istituzioni, ma devo dire che questa volta non riesco proprio a condividere la scelta di confermare la parata militare, di confermare una manifestazione che stride terribilmente con il sentimento di dolore e di lutto che avvolge il paese intero. Credo che si tratti di un gravissimo errore. Mi permetto con grande umiltà di dire la mia opinione, ma sarebbe stato un bel gesto dare questo segno di sobrietà. L'Italia ha il cuore spezzato. È bene che oggi tutti quanti si stringano attorno ai territori, alle popolazioni colpite dal sisma. Siamo di fronte a un terremoto che non finisce, che continua, che terrorizza e distrugge. Sarebbe in un periodo di crisi come questo, sarebbe veramente importante, diciamo così, dare segnali in controtendenza rispetto a una celebrazione con la parata militare. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato del terremoto dell'Emilia Romagna, un altro operaio morto nel crollo di una fabbrica. Sono 17 le vittime del sisma di ieri, di queste 14 erano nei capannoni. La procura di Modena ha aperto una inchiesta. Decine le scosse anche nella notte, l'ultima stamattina di magnitudo 3.8. Sul fronte degli aiuti il governo ha varato l'aumento di 2 centesimi della benzina per l'emergenza. Adesso tutte le altre notizie. Cominciare dai mercati finanziari, dove è tornato a salire lo spread tra il BTP e il Bund, e oggi nell'asta del tesoro dei nostri titoli di Stato solo una parte dei 6,25 miliardi di euro di titoli BTP sono stati venduti dal tesoro. Facciamo il punto su questa giornata importante con Deborah Rosciani. Sì, abbiamo l'imbarazzo della scelta sulle notizie dalle quali iniziare. Cominciamo con una che è stata diramata poco fa dalle agenzie. ed è una conferma rispetto a quanto anticipava l'agenzia Bloomberg, Bloomberg TV anzi poco fa, che sosteneva che l'Unione Europea sta studiando una ricapitalizzazione delle banche in difficoltà attraverso il fondo ESM, il meccanismo di stabilità europeo. C'è stata la conferma, la Commissione Europea avrebbe indicato il fondo anticrisi ricapitalizzi direttamente le banche in difficoltà. Questo al momento è solo un flash di agenzia, ma questa circostanza appunto anticipata da Bloomberg TV viene confermata. Sulla scia di queste indicazioni già stamattina le borse europee avevano aperto piuttosto male, bruciando i guadagni di ieri, poi hanno migliorato per poi peggiorare di nuovo, ma c'è tensione e adesso il catalizzatore, come diciamo da qualche giorno, è proprio la Spagna e la condizione delle banche spagnole. Molta turbolenza questa mattina anche sull'andamento del mercato obbligazionario, sui titoli di Stato, lo spread fra i bonus, i titoli di Stato spagnoli a 10 anni e i tedeschi è arrivato a 538 punti base ed era partito a razzo questa mattina anche il differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi, che è arrivato a 467 punti base. Questi livelli sono ancora molto alti, ma è leggero rallentamento. In ogni caso il mercato ha guardato anche all'andamento dell'asta di titoli di Stato organizzata questa mattina dal Tesoro italiano, che non è andata esattamente come nelle attese, perché il Ministero dell'Economia aveva proposto titoli per 6,25 miliardi, mentre ne ha venduti alla fine 5 miliardi 740 milioni. I rendimenti sono schizzati di nuovo verso l'alto, per il titolo a 5 anni è salito il tasso al 5,66% dal 4,86 di aprile, per il BTP a 10 anni il tasso è risalito di nuovo sopra il 6% dal 5,84 rispetto all'asta precedente. Le borse sono in calo, Milano perde un punto, Londra meno 1,14, Parigi meno un punto, Francoforte meno 0,7% ed euro su dollaro ai minimi da luglio 2010 a 1,24,43. È tutto. Grazie, grazie a Deborah Rosciani. Il governo pone 4 questioni di fiducia sulla riforma del mercato del lavoro all'esame dell'Aula del Senato. Lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda. Il DDL viene quindi spacchettato in altrettanti capitoli che dovrebbero riguardare la flessibilità in entrata, quella in uscita, e poi gli ammortizzatori sociali e la formazione. La riforma è stata migliorata durante l'esame parlamentare, ha commentato il ministro del lavoro Fornero al Senato. Ora le norme, ha detto, vanno interiorizzate oppure rischiano di restare lettera morta. Sentiamo un passaggio del suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, in cui ha ricordato anche le vittime dell'Emilia Romagna. Un dovuto e vibrante atto di omaggio ai lavoratori morti sotto le macerie della fabbrica dove avevano ripreso il lavoro dopo il terremoto della scorsa settimana. È stato il lavoro, come dimostrano le tristi statistiche di cui disponiamo, il vero epicentro del sisma. E dobbiamo considerare che le buone leggi sono una condizione necessaria, ma non sufficiente, per un corretto rapporto lavorativo. Altre condizioni esterne sono necessarie, dall'ambiente naturale alla stabilità degli edifici. La cronaca ora: un artigiano milanese creditore presso un'azienda che si occupa di termoidraulica ha cercato questa mattina di darsi fuoco davanti alla sede della società. L'uomo si era cosparso di benzina e solamente e fortunatamente il rapido intervento dei carabinieri ha evitato questa nuova ulteriore tragedia. E ora parliamo degli sviluppi dell'inchiesta sul calcio scommesse, perché sviluppi ci sono e ci sono anche nuovi avvisi di garanzia. Toccherà a Mauri, Milanetto e Turati oggi pomeriggio comparire davanti al GIP di Cremona per gli interrogatori di garanzia. In cella da lunedì il capitano della Lazio è intenzionato a raccontare la sua verità e a difendersi dalle accuse, hanno fatto sapere i suoi avvocati che lo hanno incontrato in carcere. Nei primi interrogatori ieri alcuni degli arrestati avrebbero iniziato a collaborare con gli inquirenti. Uno di questi è stato anche scarcerato. Si tratta di Vittorio Gatti, un amico dell'ex calciatore del Siena Carobbio, quello che con le sue dichiarazioni ha tirato in ballo il tecnico della Juventus Conte. ma ad ammettere le sue responsabilità è stato anche il portiere del Vicenza Acerbis, accusato di aver manipolato diverse partite quando era al Grosseto. Un nuovo fronte su un altro presunto giro di scommesse si è aperto nel frattempo a Napoli, dove oggi i PM hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari agli ex calciatori Giannello e Giusti. Il Napoli rischia il deferimento e l'esclusione dall'Europa League, rischiano invece una squalifica sportiva altri due napoletani, Cannavaro e Grava, che avrebbero rifiutato una combine senza però denunciare il fatto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Papa Benedetto XVI ha affrontato oggi per la prima volta in pubblico gli eventi che hanno riguardato la fuga di notizie denominata dai giornalisti VatiLeaks e l'arresto del suo maggiordomo. Eventi, ha detto, a conclusione dell'udienza generale in Piazza San Pietro, che hanno recato tristezza nel mio cuore. Ha scelto di intervenire direttamente sul VatiLeaks che sta scuotendo la Chiesa in questi giorni con l'arresto del maggiordomo e le voci incontrollate sui contrasti interni alla Santa Sede, il Papa, e lo ha fatto con una dichiarazione pronunciata al termine dell'udienza generale. Nel rinnovare l'incoraggiamento e la piena fiducia ai suoi più stretti collaboratori, Benedetto XVI ha sottolineato che si sono moltiplicate illazioni amplificate da alcuni mezzi di comunicazione del tutto gratuite e che sono andate ben oltre i fatti, offrendo una immagine della Santa Sede che non risponde alla realtà. Durante l'udienza dedicata alla figura di San Paolo, il Papa invece ha sottolineato che, nonostante infedeltà e rinnegamenti dell'uomo, la promessa di salvezza di Dio è irrevocabile e non si esclude il perdono anche per Paolo Gabriele, che ad indagini finite potrebbe essere graziato dal Papa. Rischiano molto di più invece, se dovessero essere provate le accuse, i tre funzionari laici dipendenti della Santa Sede ma cittadini italiani che sarebbero tra i complici del maggiordomo. Presto il Vaticano potrebbe chiedere la collaborazione della giustizia italiana. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Buone notizie per i due Marò incarcerati in India. Dietro versamento di una cauzione, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone potranno lasciare l'ex riformatorio di Kochi, dove sono stati trasferiti venerdì. L'ha deciso l'alta corte del Kerala, dopo che il governo dello Stato indiano ha deciso di rinunciare ad applicare le norme contro il terrorismo marittimo. 1.500 rupie a testa, i due italiani potranno dunque attendere il processo in libertà vigilata. La richiesta era già stata respinta due volte per ragioni tecniche da giudici inferiori. E solo ieri l'alta corte aveva bocciato il ricorso del governo italiano sulla delicata questione della giurisdizione, stabilendo che il caso è di competenza della giustizia indiana. Oggi invece la svolta, sembra a questo punto avviarsi a soluzione, è un caso che sta creando problemi legali e diplomatici fra Italia e India ormai da quasi quattro mesi. Era infatti il 15 febbraio quando i due Marò avrebbero sparato, uccidendo i due pescatori locali, forse scambiandoli per pirati, mentre si trovavano a bordo della nave italiana Enrica Lexi. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ricordate Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, il sito che ha diffuso documenti riservati? Bene, sarà estradato in Svezia. The request for Mr. Assange's extradition has been lawfully made and his appeal against extradition is accordingly dismissed. L'eco della sentenza è arrivata questa mattina, quando il presidente della Corte Suprema londinese ha emesso il verdetto raggiunto a maggioranza. Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, potrà essere estradato in Svezia, dove su di lui pende un'accusa per violenza sessuale. Respinto l'appello presentato dai legali, che però a sorpresa avranno a disposizione due settimane di tempo per presentare un nuovo ricorso. L'ultima possibilità per l'ex hacker di evitare la Svezia sarà poi appellarsi alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. Sulla testa di Julian Assange, che ha seminato il panico ai piani alti di tutti gli stati del mondo pubblicando documenti top secret, pende un mandato d'arresto europeo di Stoccolma, dove è accusato di violenza sessuale, in particolare di aver avuto rapporti non protetti con due donne e di aver rifiutato di sottoporsi a un controllo medico sulle malattie a trasmissione sessuale, un reato questo che in Svezia viene punito. Doriana Leonardo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Paolo Corleoni regia, vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.